da una classe di ragazzi per bene, come cani nelle strade, con l'odio nelle vene. Scriviamo pezzi che poi diventano cenere. Odiamo le sirene, il quartiere ci appartiene. Siamo una classe abbandonata, fratelli di borgata. La politica è macabra, qua la vita un'altra. Vieni a vedere lontani dalla tele, se peccato è divino. Fanculo, qua si gioca tutto col destino. Si fa pugni con la storia per un pizzico di gloria. Tra vomito e noia, il rap dalle nostre lingue. E con un furto non cambia la vita di un principe. La vita mi stringe, qua si scoppia. Ho pesi sulla schiena, tocco il fondo con le ginocchia. Se cado tu non mi rialzi, perché sto negli angoli bassi, dove la strada ci fa forti come sassi. Immagini che sfiorano realtà dentro questi suoni. Siamo padroni di queste vibrazioni. Veniamo da una vecchia scuola, da una classe distrutta, fatta di ripetenti. Tu zitto quando senti questi flow prepotenti. La chiave delle no forze lieve, microfoni a pentina, in difesa e sacciaccio bomba lieve. Prendiamo la mina e facciamo fuoco, microfoni a pentina, mettiamo noi le regole del gioco. La chiave delle no forze lieve, microfoni a pentina, in difesa e sacciaccio bomba lieve. Prendiamo la mina e facciamo fuoco, microfoni a pentina, mettiamo noi le regole del gioco. La concentrazione, la vita con cura, gli insegnamenti in un'altra lezione. La mia scarsa applicazione non prevede alcuna opzione, se non quella di affrontare ogni desolazione. Un nuovo gioco, una nuova situazione. Mi ci vergo a pieno come biscotti nell'attacco l'azione. Questo rap non ha pari, io impari e compari, tu impari o scompari. Mi circondo di fratelli allontanando i rivali. Vivo nella merda, ci affondo con tutti e due gli stivali. Sardo doc, prendo posizione, non resto freno. Perdo la cognizione del tempo tra rime strumentali, altero percezioni reali, spesso e volentieri mischio sentimenti ideali. Sì, ma quali? Vivo stati d'animo surreali, tra ingrani o scali. Resto in guardia, guarda, spingo solo ciò che mi riguarda. Il resto non fa testo, e ciò che non mi interessa non lo si guarda. Brano e che è sardo doc, microfoni aperti, impatto diretto. Sono questi soli nomi che ho.